la gente, credendo di studiare, diventano deficienti. E questi professori, burocrati potenti, davanti a questa scuola si sentono dei perdenti. Per un peggio ricordo ti tocca di studiare, ma c'è chi con i soldi ce la fa anche comprare. Scuola in fiamme, scuola in fiamme, scuola, scuola. Per un voto di merda ti trattano da coglione. Ci mettono i piedi in testa, ci trattano come merde. Tiriamo fuori le palle con la rivoluzione. Suona il fiamme.